Giovedì 28 marzo i titoli, Il Sole 24 Ore apre su Cipro. Cipro blocca la fuga di capitali, questo è il titolo di prima pagina. Poi invece la politica, nel giorno in cui Bersani forse andrà al Quirinale, forse stasera, ma forse domattina, fate con calma. Bersani ancora senza intesa per il Corriere della Sera, Repubblica, Bersani PDL battaglia sul Quirinale, La Stampa, il PDL a Bersani, hai chiuso, Il Messaggero, ultimatum PDL, Bersani a rischio. Libero non è matto, è sordo, e si riferisce a Bersani. L'Unità, patto Grillo-Berlusconi, fermare il cambiamento. Il Giornale, Bersani come Fantozzi, umiliato. Il Fatto Quotidiano, Bersani vicino alla resa, Movimento 5 Stelle, nome fuori dai partiti. Come vedete, insomma, i titoli sono tutti improntati al grave pessimismo. Bersani al bivio, pronto al piano B. Questa è l'apertura anche di Avvenire. Intanto, cosa è successo? Sviluppi del caso Battiato. Beh, l'avete sentito, l'avete saputo. Insomma, Battiato è stato cacciato. E già che c'era il presidente della Sicilia, Rosario Crocetta, ha cacciato anche Antonino Zichichi, lo scienziato che era messo assessore a che? Alla cultura. Ebbene... Zichichi oggi fa due interviste al Corriere della Repubblica. Sentite cosa dice a Felice Cavallaro su Repubblica. Ma senta, davvero, professor Zichichi, il capo di gabinetto dell'assessorato alla cultura, ha dovuto raggiungere la casa sua a Ginevra per firmare documenti più urgenti, come le rimprovera il presidente Crocetta. Beh, effettivamente è accaduto una volta, ma a Palermo andavo, vado, lavoro. Cosa crede Crocetta, che possa mettermi a fare il politico abbandonando il mio lavoro di scienziato? Io qui a Ginevra sono impegnato nella ricerca del supermondo. Lo cerco da 10 anni e poi l'universo subnucleare. Ecco, verrebbe da pensare, insomma, abbiamo fatto assessore uno così, questo è un po' il problema. Scusi professore, chiede Cavallaro, ma tra raggi cosmici e supermondo si finisce per abbandonare i beni culturali in Sicilia? Ma cosa dice mai? Io ho accettato di dare una mano a Crocetta per voltare pagina, per quanto mi riguarda ho mantenuto il mio impegno e lo ringrazio di avermi liberato da un'incombenza pesante. In 3 mesi ho fatto 12 progetti, come il progetto della Via degli Scrittori, da Racalmuto a Porto Empedocle, passando per Agrigento. In 20 chilometri c'è una miniera con 3 colonne, Sciascia, Pirandello e Camilleri, ovvero Archimede a Siracusa. Forse sono progetti un po' troppo avanzati per essere capiti, ma con uno sforzo si può salvare un'isola. Insomma, Antonio Zichichi, che è anche intervistato da Emanuele Lauria su Repubblica, a pagina 10 ribadisce i concetti. Io sto cercando il supermondo. Il governatore sbaglia a cacciarmi. Volevo far voltare pagina alla Sicilia, ma è difficile mettere insieme scienza e politica. Effettivamente, un po' è difficile. A proposito di Sicilia, ci sono alcuni giornali che sottolineano l'inciampo del grillino. Il rappresentante del Movimento 5 Stelle, Antonio Venturino, vicepresidente dell'Assemblea regionale siciliana, è andato con un'auto di servizio, alias auto blu, alla base militare americana di Sigonella, dopo aver promesso che mai avrebbe utilizzato questo privilegio. Così La Stampa mette una foto, ci sono le polemiche, mentre sale, l'ho messa anch'io sul mio profilo Twitter, Alino Milan, se volete andare a vederlo. Il grillino inciampa sull'auto blu. A volte è tutta questione di sfumature, scrive Laura Nello sulla Stampa. Secondo il vicepresidente dell'Assemblea regionale siciliana, il grillino Venturino, la macchina scura con lampeggiante su cui ha viaggiato insieme con il presidente della Commissione Ambiente Trizzino da Palermo a Sigonella, non è un'auto blu, è una vettura di servizio, diciamo un'auto aziendale dell'Assemblea regionale siciliana. Risponde Piccato ai cronisti, simbolo additato da lui stesso però a pubblico ludibrio, tanto da aver rinunciato a quella che gli spettava quotidianamente per la carica che ricopre. Qualcuno dirà che era un'auto blu, ma non lo è. Io la macchina non ce l'ho, a piedi sarebbe stato complicato, in bicicletta sarebbe stato un po' difficile. Per carità, magari è una polemica sul nulla, può darsi che sia una polemica su piccole cose, ma la frase sempre da scolpire, da tenere a mente, come quando si diceva qualche giorno fa e come disse quel famoso tale: a fare i puri c'è sempre uno più puro che ti epura. E vabbè, allora vi voglio, abbandonando per un attimo la politica, sottolineare e segnalare un bellissimo articolo, a mio modo di vedere, che Carlo Verdelli ha scritto in prima pagina di Repubblica. riguarda Pietro Maso, la vicenda di Pietro Maso, ricordate, che uccise in maniera brutale i genitori per ottenere l'eredità e che a metà aprile, tra qualche giorno dunque, ha finito di scontare la pena e sarà un uomo libero. Il ritorno di Pietro Maso al confine del male è un articolo che inizia in prima pagina, ma sono poi tre pagine dedicate a questa vicenda che certo fa suscitare i soliti interrogativi. Scrive Verdelli: la vera condanna di Pietro Maso è la fama. Sono passati 22 anni da quando sprangò a morte insieme a tre amici la madre e il padre. C'era ancora la lira, non esisteva internet, si era da poco insediato il settimo e ultimo governo Andreotti, un'altra Italia, un altro mondo. Eppure quando tra pochi giorni, il 15 aprile, lascerà per sempre il carcere, ad attenderlo ci sarà la folla di telecamere, fotografi. Per esempio, lo aspetta già un libro, Il male ero io, edito niente meno che da Mondadori, firmato da lui e scritto dalla giornalista Mediaset Raffaella Regoli. Data prevista per il lancio il 16 aprile, a cavallo tra il 15, fine della pena, e il 17, anniversario della mattanza. Ma potrebbe non finire qui il Maso parte seconda. Pare che Alfonso Signorini, direttore di Chi, lo volesse in un programma natalizio su Canale 5 con tema surreale della puntata L'amore per i genitori, con Maso che avrebbe dovuto spiegare al termine del suo travagliato percorso di conversione e pentimento quanto siano importanti per la vita di un figlio. E racconta ancora Verdelli: tutto saltato per un provvidenziale no del giudice, ma pazienza, ci saranno altre occasioni, perché a suo modo Pietro Maso è una star. Figura ancora per qualche giorno tra gli ospiti di spicco della severa galera di Opera, insieme a Riina, Vallanzasca, Sandokan, qualche bestia di Satana. Durante un permesso è stato ritratto in amichevole conversazione con Corona. Novella 2000 gli ha dedicato pagine su pagine. Anche l'Apo Elkan si è interessato a lui, forse per via della seconda possibilità. E pochi giorni fa, l'altra mattina, racconta Verdelli, mio figlio di 12 anni mi ha chiesto proprio questo: mamma, per te è giusto che Maso esca? La mamma in questione è Roberta Cossia, giudice del Tribunale di Sorveglianza di Milano, che ha firmato il fine pena, condanna che era di 30 anni e 2 mesi, spiegabile con l'età dell'omicida, che allora aveva appena 19 anni e 9 mesi, sarebbe dovuto restare in carcere fino al 2021, ma tra i 3 anni di indulto, 45 giorni maturati ogni 6 mesi per buona condotta, e fanno quindi altri 5 anni, la scadenza è stata anticipata. Nessun favoritismo, è la legge. Ebbene, a mio figlio, dice il giudice, ho risposto che sì, lo è. È giusto che esca. Quando il castigo è stato espiato, ognuno ha diritto a una nuova vita, semmai c'è da augurarsi che non la sprechi. E secondo lei, signor giudice, il Maso di 42 anni, che sta per tornare libero cittadino, saprà non sprecarla? Risposta del giudice: la cosa più saggia sarebbe quella di ripartire altrove, che so, un bar a Santo Domingo, diventare uno qualunque. Il rischio invece è quello proprio di fare del proprio male un business, ovvero un'altra prigione. Quel che resta del male, questo è l'intenso, bell'articolo, ho letto alcuni stralci ma continua poi per due pagine, di Carlo Verdelli, che trovate su Repubblica, sulla storia di Pietro Maso, uno che lo stesso Verdelli scrive in carcere ha rigato dritto, le sorelle lo hanno perdonato, 2 anni fa si è anche sposato e il 15 aprile tornerà libero, un libro lo attende e forse la fama, la gloria, i soldi. Premessa: leggere i giornali oggi è un qualcosa che non augurerei neanche al mio peggior nemico, proprio quelli di oggi, tutto un insieme di elenchi in attesa di capire Bersani, che andrà oggi al Quirinale, sui giochi di posizione per il Quirinale, quello propone 5 nomi, quell'altro 3, quello rilancia su 2, Vasco Errani, Denis Verdino e Gianni Letta si sono incontrati ieri sera fino a tardi, scrive Repubblica, per cercare di trovare una soluzione, insomma una cosa abbastanza penosa di posizioni, riposizionamenti. Comunque questo è per capire il clima che c'è alla vigilia o comunque nelle ultime ore decisive, perché poi Bersani andrà al Quirinale per dire ecco questo è. Leggete l'incipit dell'articolo di Emilia Patta sul Sole 24 Ore a pagina 11. Un dirigente anonimo del Partito Democratico dice così: il PDL vuole un gesto di legittimazione politica? Detto tra noi, è come quando le Brigate Rosse negli anni 70 chiedevano il riconoscimento politico. Ecco, questa frase, scrive Patta, descrive con una certa crudezza quello che nella tarda di sera di ieri era il clima tra i due principali partiti. In mattinata c'era sparso un po' di sano ottimismo tra i democratici sulla possibilità di chiudere un accordo sullo schema del doppio binario. Questa idea di offrire, di guidare la convenzione per riformare la Costituzione al Popolo della Libertà, ma poi una chiusura totale. Una chiusura totale. A questo proposito è molto esplicativo l'editoriale del Corriere della Sera di Michele Ainis. In prima pagina il titolo è Il bersaglio immobile. Scrive Ainis, che è un costituzionalista: ho fatto un sogno. Bersani torna al Colle, meglio tardi che mai, e ci torna a mani vuote, senza un sostegno parlamentare certo al proprio tentativo, sicché quest'ultimo, il presidente, lo accompagna alla porta, sia pure con rammarico, e si prepara a sparare un secondo colpo di fucile. Perciò altre consultazioni. Arriviamo più o meno al 5 aprile, quando mancano 40 giorni all'insediamento del prossimo capo dello Stato, ma intanto il vecchio presidente non ha più cartucce da sparare. Né tantomeno può usare l'arma atomica, cioè lo scioglimento anticipato delle Camere, perché si è in semestre bianco. Stallo totale, blocco senza vie di sblocco. 40 giorni così, scrive Ainis, non li possiamo proprio vivere. Sarebbe da pazzi, un suicidio nazionale. Ma sta di fatto che il seme della follia ha ormai attecchito la nostra vita pubblica. Bersani inaugura una singolare forma di consultazioni, le consultazioni al singolare. Sente Saviano, Donciotti, De Rita, il Club Alpino, il WWF. Nel frattempo il suo partito discetta sulla ineleggibilità di un uomo politico. Berlusconi già eletto per 6 volte. Il Movimento 5 Stelle disdegna tutti i partiti. Come siamo ridotti in questa condizione? Quale dottor Stranamore ha brevettato il virus che ci sta contagiando? Perché il guaio non è più tanto ad essere un paese acefalo, senza un governo sulla testa. No! La nostra disgrazia è aver perso la testa, letteralmente. Stiamo in guardia. Come diceva Euripide, quelli che Dio vuole distruggere prima li fa impazzire. Eppure in Italia non mancano intelligenze né eccellenze. Conclude Ainis questo editoriale, che è proprio uno sfogo. Una cosa però dovrebbe essere chiara: se fallisce il governo dei partiti, quello incarnato da Bersani, c'è spazio solo per un governo del presidente, votato in Parlamento ma sostenuto dall'autorità di Napolitano, anche se quest'ultimo a breve lascerà il suo incarico, anche a costo di sperimentare l'ennesima anomalia istituzionale, il governo dell'ex presidente. Insomma, effettivamente c'è la sensazione di questo impazzimento totale. Leggete i retroscena, se volete, dei giornali. Berlusconi blocca la trattativa. Io ho Gianni Letta al Quirinale. Solo così mi sento garantito. Questo è Carmelo Lo Papa su Repubblica. Il giornale: lasci incarico a noi. Bersani viene umiliato e fatto fuori da Grillo. Tanto che in prima pagina Vittorio Feltri fa un editoriale sul giornale paragonando Bersani a Fantozzi, uno spettacolo inedito ieri. Un conto è vedere il segretario del PD, scrive Feltri, che sicuro di sé, incline alle metafore rurali, pronto alle battute salaci, carico di ottimismo, arringa dalla tribuna al popolo ex comunista. Un altro conto è assistere alla sua esibizione da cagnolino bastonato davanti a due grillini esordienti parlamentari. Bersani sembrava Paolo Villaggio nei panni del ragionier Fantozzi. Faceva pena Pierluigi, parlava, impegnandosi al massimo per essere persuasivo, ma più parole riuscivano dalla bocca e meno persuaso dalla bontà di ciò che diceva era lui stesso. Questo Vittorio Feltri. Tra l'altro, finita la riunione, Beppe Grillo ha tuonato politici, compreso Bersani, puttanieri. Ecco, questo è un po' il clima. Guardate sempre la retroscena di Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera. Parte la guerra delle due rose, veti e richieste per il Quirinale. Bersani avrebbe indicato una lista di nomi per il Quirinale per cercare di blandire il PDL, e questi nomi sarebbero Franco Marini, Giuliano Amato, Pietro Grasso e Giuseppe De Rita. Al che Berlusconi è andato a vedere il bluff e ha rilanciato proponendo non più Gianni Letta bensì Marcello Pera. Di fronte a questa mossa Bersani è rimasto spiazzato, perché ha capito che l'esile filo a cui si era attaccato si è già spezzato. E sono tutti così in retroscena, la battaglia per cercare un disperato accordo che difficilmente ci sarà, ma chissà. Intanto, conclude questo retroscena Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera, intanto Matteo Renzi da ieri è a Roma. puntini, puntini. Ma su Matteo Renzi ci ritorniamo tra un attimo, perché c'è un articolo del Fatto Quotidiano che può suscitare qualche polemica. Comunque tutto è incentrato sul Colle, l'ostacolo finale per il segretario Berlusconi, io ho Letta per il Colle, questo anche il titolo del Messaggero, in realtà pare che avrebbe proposto Marcello Pera. E in tutta questa incertezza, come pensate che possa andare l'incontro tra Bersani e Napolitano? Beh, il Corriere della Sera oggi, per l'ennesimo giorno, racconta con Marzio Breda che la posizione di Napolitano sarà questa: o numeri certi o accordi chiari, oppure il pre-incarico dato a Bersani quando ci sarà il colloquio non potrà essere trasformato in incarico. E tutti i giornali raccontano, sempre densi di retroscena, di nomi che già si profilerebbero come alternativi a Bersani, e i nomi sono sempre quelli: Giuliano Amato, Enzo Cheli, poi chi c'è? Sacco Manni da Banca Italia, oppure la Cancellieri, ministro dell'interno, Paola Severino, ministro della giustizia, Fabrizio Barca, che è quello su cui ho puntato 10 centesimi come al solito, cioè io da giorni, da un mese per la verità, ho detto il premier secondo me lo farà Fabrizio Barca, e così lo diciamo pubblicamente, lo dico anche sul profilo Twitter, se mai succederà avrà la bontà di concederci la prima intervista in esclusiva, ovviamente. Libero punta su Giuliano Amato, per Napolitano Pierluigi Bersani è già al passato e rispunta Amato, comunque si vedrà tra poco. Matteo Renzi, si diceva, oggi il Fatto Quotidiano fa una pagina, per la verità già ieri qualcosa c'era di anticipazione ma oggi si approfondisce, con Renzi, assunto, candidato e pensione sicura in 11 giorni. Marco Lillo, Fatto Quotidiano, pagina 8, racconta che Matteo Renzi è stato assunto come dirigente della società di famiglia, la CIL SRL, 11 giorni prima che l'Ulivo lo candidasse a presidente della provincia nel 2004. Per cui, in questi 9 anni, per una legge che prima ci ha spiegato Mario Dinolfi come funziona, i contributi per l'aspettativa da dirigente dell'azienda di famiglia non li paga l'azienda di famiglia come avverrebbe per chiunque. Per i politici c'è una legge per cui il politico eletto il contributo per la pensione glielo paga l'ente per cui il politico è stato eletto, e quindi tutti noi. Ecco, questa è l'accusa del Fatto Quotidiano. Da quasi 9 anni i contributi della pensione del dirigente sindaco di Firenze sono versati dalla collettività. Oggi poi si scoprono nuovi particolari, tutta la ricostruzione di come Renzi è entrato in questa società, la società di famiglia. Tutto secondo le regole, non è che ha violato alcuna legge. Certo, però c'è questa legge che consente ai politici in aspettativa di farsi pagare appunto la pensione dall'ente pubblico per cui sono stati eletti. Renzi si difende, eccetera. Comunque questa sicuramente è una polpettina un po' avvelenata sul Fatto Quotidiano. Renzi assunto candidato e pensione sicura in 11 giorni. Oh, in tutta questa incertezza, in questa confusione, c'è una certezza unica, che è questa: una pagina di Adriano Celentano su Repubblica. E allora, dopo il traffico, con una gioia immensa, andrò a leggere, sempre ovviamente stressando, sottolineando le parole in maiuscolo, con questo tono: Adriano Celentano. E allora, Adriano Celentano, una pagina intera, come perdersela, su Repubblica, pagina 9, troppi insulti, la politica impari dal Papa, e Grillo cambi registro. È un Adriano Celentano in straordinaria forma, quasi mistico, io me lo vedo tra i fumi mistici mentre scriveva questa intensa pagina. Caro direttore, se il Papa dovesse scrivere una lettera a Grillo e a Bersani, immagino che le parole sarebbero più o meno queste: cari fratelli, amate i vostri nemici, almeno in quei 3 punti di governo che piacciono a Grillo e sui quali entrambi siete d'accordo per la fiducia. Tralasciate per ora i punti che vi separano, non c'è amore più grande di 2 nemici che decidessero di incontrarsi sulla via di Damasco. Questo direbbe il Papa, e ne sono certo, altrimenti non avrebbe scelto quel nome così singolare di cui oggi la terra ha tanto bisogno. E il mondo politico invece, scrive Celentano, quello che conta, di cosa parla? Di emergenza? Sì, un po', ma più che altro di come sminuire, per esempio, l'ascesa di Pietro Grasso alla presidenza del Senato. Ma queste sono inquadrature della politica italiana ben al di fuori di quell'amore universale di cui parla il Papa, che come in un film si susseguono una dopo l'altra sul viale delle stronzate, come quella di Flores d'Arcais e il suo appello all'ineleggibilità di Berlusconi, una cazzata non soltanto fuori luogo ma decisamente fuori tempo musicale. Se Berlusconi, che tutti davano per finito, non avesse preso quei 10 milioni di voti e fosse crollato, mi domando se a Flores d'Arcais gli sarebbe venuta lo stesso la fulminante idea da meschina campagna elettorale. La cosa che più mi dispiace, dice ancora Celentano, è che anche il Movimento 5 Stelle e il PD incorrono nello stesso errore. Cambiamento significa prima di tutto eleganza! In tutti i settori, anche nel campo della giustizia, naturalmente escluse ogni tipo di agevolazioni per i criminali. Insomma, bisogna ricominciare da capo, se occorre, con pene anche più dure, non come adesso che basta un po' di buona condotta e l'assassino esce bel fresco e riposato dopo solo i pochi anni di galera. Cioè, voi capite che questa è solo la prima colonna, ma come si fa? È un faro, una luce nella confusione dei giornali di oggi, no? Che ne pensate? Un faro, questo articolo di Adriano Celentano, che tuona contro gli insulti e dice la politica impari dal Papa. E poi invita Beppe Grillo, anche lui: mi preoccupa il fatto che se non cambi marcia aspetti ancora di innescare quella del vero statista. Anche se comico, ho paura che il motore si imballi e questo sarebbe un vero peccato. Oh, cari politici, ascoltate l'appello di Celentano, che trovate tutto con parole maiuscole comprese, a pagina 9 di Repubblica. Ieri l'avete sentito Mario Monti? Non vedo l'ora, questo governo non vede l'ora di essere sollevato. Parlava dei Marò. È l'ora di andar via, così titola Il Sole a pagina 10. Ha accusato anche duramente Terzi, il ministro che si è dimesso, dimissioni inconsuete. Ci sono fini politici, come dire, ha detto Monti. L'obiettivo non era cambiare una decisione, ma un obiettivo più esterno, conseguire altri risultati che forse diventeranno più evidenti col passare del tempo. Insomma, ha detto in maniera molto chiara, l'ha fatto per candidarsi tra poco. E tutti guardano al centrodestra, tanto che c'è un retroscena a firma Maurizio Caprara sul Corriere della Sera, pagina 13, in cui si sospetta che il ministro Terzi abbia incontrato, prima delle dimissioni, Renato Brunetta. Un Renato Brunetta che, per la verità, a questa domanda del Corriere, che gli dice: ma lei ha incontrato domenica il ministro Terzi poco prima delle dimissioni? Assolutamente no, io la domenica dormo, così ha risposto in maniera molto brusca Renato Brunetta. Vabbè, in tutto questo l'economia, vi segnalo una pagina su Cipro, da parte del Sole 24 Ore, a pagina 3. Che succede a Cipro? Beh, benvenuti a Cipro, racconta Roberto Bongiorni. C'è un limite massimo di 5.000 euro al mese per le transazioni all'estero mediante carta di credito. Un tetto di 3.000 euro in contanti a chi intende uscire dal paese per ogni viaggio. Divieto di riscuotere assegni. Prelievo dai bancomat non superiore ai 300 euro al giorno. Limiti molto severi, anche se non ancora specificati, a chi vuole trasferire denaro all'estero. Insomma, queste sono le prime restrizioni. Sono una bozza, per la verità, non sono ancora definitive, ma predisposta dalla Banca Centrale di Cipro per scongiurare quello che potrebbe rivelarsi il colpo fatale per la piccola economia dell'Eurozona. C'è un assalto a depositi da parte dei correntisti privati. Oggi riaprono le banche dopo 12 giorni di chiusura, dalle 12 alle 18, ha fatto sapere la Banca Centrale di Cipro, che ha precisato come le transazioni interne con carta di credito saranno illimitate. Sta di fatto che tutti sono in attesa di capire cosa succede a Cipro, così come la Slovenia, dove c'è il rischio che si diffonda il contagio. E tra l'altro in Slovenia l'Italia è esposta per 7,6 miliardi di euro, come racconta il Sole 24 Ore. Dunque c'è anche molta preoccupazione in questo. Vorrei dedicare una pagina di cronaca a quello che è successo ieri con la manifestazione di un sindacato di polizia, per la verità non un grande sindacato, un piccolo sindacato, il COISP, che è andata a manifestare sotto il comune di Ferrara. manifestavano per solidarietà nei confronti dei quattro poliziotti che sono stati accusati e sono in carcere alcuni dell'uccisione di Federico Aldrovandi, il giovane fermato in questo fermo di polizia, massacrato di botte e quindi ucciso. Io non lo so voi, ma sicuramente quando ho visto questa vicenda ho provato davvero un senso di vergogna profondo, perché a un certo punto la madre di Federico, che lavora al comune di Ferrara, è scesa in piazza esponendo quella foto che è finita su tutti i giornali del figlio ucciso con la testa rotta, col sangue ovunque. E voi immaginatevi una madre già che deve vedere questa foto, chissà quante volte l'avrà vista, del proprio figlio, essere costretta per reagire in qualche modo in maniera silenziosa dicendo sono scesa in piazza facendo vedere la foto, ecco questo è mio figlio come l'hanno ridotto, e voi manifestate per solidarietà nei confronti delle persone che lo hanno ridotto così. Ecco, vedere una madre che deve abbassarsi a così tanta sofferenza per quello che è successo a suo figlio, beh, mi ha fatto provare davvero un senso di vergogna totale per coloro che manifestavano. Aldrovandi, corteo contro la madre, i poliziotti sconfessati dal ministro, il ministro all'interno Cancellieri viene intervistato da Repubblica, da Alberto Custodero, e dice siamo pronti a punire quei poliziotti che hanno manifestato perché non rappresentano lo Stato. I manifestanti del COISP non rappresentano la polizia. È un durissimo giudizio quello del ministro dell'interno, ha stigmatizzato il comportamento degli agenti. Ho dato mandato al capo vicario della polizia Alessandro Marangoni di valutare se il comportamento di quegli agenti sia stato offensivo al decoro della divisa che indossano, però bisogna vedere cosa hanno fatto, cosa hanno detto, qual è stato il loro comportamento. Dice il ministro: ho il massimo rispetto delle manifestazioni sindacali, sono sacre. Per quanto riguarda l'episodio in questione, però, lo condanno assolutamente dal punto di vista morale per la mancanza di sensibilità nei confronti di una madre che piange il figlio morto. Non bisogna dimenticare mai che ha perso il suo ragazzo. Il mio giudizio morale è assolutamente negativo. Così il ministro dell'Interno Cancellieri, e sottoscrivo in pieno, davvero una manifestazione vergognosa.